Allora, abbiamo detto tante volte che il nucleo di Aleph è un tipo, è una mentalità. È una mentalità che si ispira alle filosofie non duali, che hanno accompagnato tutta l'umanità da sempre. Anzi, potremmo dire che l'hanno accompagnata per molto più tempo che non le filosofie più moderne, che invece sono duali, cioè che vuol dire soggetto è una cosa e l'oggetto è un'altra. Io sono una cosa, il mondo è un'altra. Va bene, il simbolo che usiamo in Aleph, ormai ben noto, è l'Ubuntu, ecco lo disegno qui, che assomiglia appunto a un bulbo che fa crescere dei virgulti, poi dei fiori, delle foglie e così via. Allora, in una pianta non ci sono dubbi che la pianta cresce finché sta dentro un progetto organico. Immaginiamo adesso che questo rametto qui sulla destra voglia crescere molto di più di quello che sarebbe la sua organizzazione e si allunga anziché di 5-10 centimetri di 20 metri. E che succede della pianta e che succede di lui? Ecco. Questo tipo di crescita disorganico è il normale modo con cui oggi crescono le cose, compresa la conoscenza. La conoscenza è diventata specialistica. Ormai tu fai soldi solo se conosci di un piede i dettagli, cioè sai più di tutti gli altri al mondo su una parte specifica del piede. Mentre una conoscenza organica oggi in genere è svalutata, anche perché la si ritiene praticamente impossibile, visto che tutte le conoscenze specialistiche si sono sviluppate così tanto. Certo. Immaginiamo che nel secolo scorso c'erano al massimo 2-3 mila riviste scientifiche, adesso il numero supera i milioni di riviste, quindi su qualunque campo ci siamo. Allora, abbiamo detto varie volte che lo specialismo di per sé non è un male, purché si accompagni al mantenimento della visione d'insieme, cosa che invece non avviene. Adesso ti farò vedere come l'Ubuntu si può applicare a qualunque situazione, a qualunque concetto. Prendiamo tre concetti molto semplici, che sono forza, tre energie archetipiche, forza, gentilezza e humor. Pensi. Bene, se queste tre forze ci sono tutte, un io che è collegato ad esse è un io sano. Sono tre qualità dell'essere. La forza, potremmo, in certi termini potremmo dire, è un aspetto maschile, la gentilezza è un aspetto femminile, l'humor è più un aspetto del bambino, insomma. Quindi abbiamo, guarda qui, il papà, il padre, il maschio, la femmina, la madre e il bambino. Sacra famiglia. Adesso cosa vediamo se la forza decide di espandersi di più a scapito di cosa? Della gentilezza. Ecco, la forza diventa violenza e diventa oppressione. Adesso ci metto qui il termine, oppressione. Ecco cosa diventa, oppressione. Cosa succede? La gentilezza se si espande, diventa al di là e perde la forza e diventa proprio quello che è successo alle donne, che è la sottomissione. Fragilità, sì, non mi viene la parola, Sì, la l'infragilità. fragilità, la sottomissione, la... Sì. Missione. Poi vediamo se ci vengono Sì, altre beh, parole più. collegato a oppressione. Sottomissione, la... Sì, il subire. Subire. Ok. Cosa succede nel bambino quando si espande troppo? Ma è ben noto, la ribellione. Ecco quindi che la legge del padre, che è quello che tiene il contatto col mondo, quando diventa oppressiva, genera nella sua famiglia che cosa? La sottomissione della femmina e la ribellione del bambino. Questo descrive il 95% di ciò che succede nel mondo oggi. Ecco perché questo è un simbolo potente. Come si fa a ritornare verso l'unità? Bisogna che ci sia equilibrio tra queste forze, tra la forza del maschile, la gentilezza del femminile e l'humor, il gioco, del bambino, in modo che il gioco non diventa ribellione, la gentilezza non diventa sottomissione e la forza non diventa oppressione. Bene, questo è un modo di riflettere sulle cose. L'altro simbolo che possiamo vedere subito è il simbolo della bilancia. Eccolo qua. Allora ci mettiamo forza e gentilezza. Se non sono bilanciate, abbiamo visto che cosa succede. Questo vale per tutti i valori dell'essere, ovvero ci troviamo di fronte a valori dell'essere quando sono tra loro bilanciati e compresenti. mentre un valore, quando con un braccio dubito diventa troppo lungo, da valore diventa qualcosa di totalmente diverso, diventa un valore dell'ego, cioè qualcosa che soffia il vento nelle vele dell'ego. E quindi, sì, quello che dicevi sempre tu, no? Che queste qualità, le qualità dell'essere sono tali quando sono totali, quando sono equanimi. Non è che se tu provi amore, lo provi per te, per il tuo marito, per il gatto, per il vicino di casa, per quello che ti è entrato in casa a rubare, comunque in qualche modo, cioè in quel momento lì magari sono altre, però in realtà di fondo lo provi anche per lui, altrimenti non, cioè no. Se non ci fosse non è una vera qualità dell'essere, non è una qualità amare il ladro vuol dire non subire, esatto, vuol dire saperlo fermare e una volta che l'hai fermato occuparsi della sua anima, sì, come esatto. Disse il Dalai Lama, se venisse uno che minaccia la nostra famiglia io lo colpirei una gamba e poi lo accarezzerei sotto la, ma prima lo rendo vita, certo, innocuo, certo, è questo, è proprio questo. Farò vedere un altro pezzo di Ubuntu, mettiamo le due a caso. Un altro dei problemi più grossi di oggi è sempre il problema tra l'astrazione da una parte e la concretezza. Concretezza, che poi nei tipi umani è evidentissimo, no? C'è il sensor da una parte, l'intuitor dall'altra. Ora, astrazione e concretezza sono due risorse formidabili e sono risorse dell'anima se sono collegate. Nel momento che la concretezza diventa l'unico parametro delle cose, perde la visione d'insieme, diventa un inquinante. Idem per l'astrazione. E oggi che cosa guarda? Guarda nelle professioni come si è diviso questo corpo. Alcuni che fanno cose solo manuali e gli è vietato di pensare, e altri che invece pensano e basta, e gli è vietato praticamente fare qualunque attività manuale. Così che i primi hanno visione limitata, i secondi visione altrettanto limitata, ma le impongono a tutti, perché l'astrazione oggi sta vincendo la battaglia sugli altri, come se fosse superiore. Ed entrambi vivono molto male. Ed entrambi vivono male perché mancano della base corporea, della base. Quindi il filosofo che va nell'astratto perde il contatto col corpo, beh, non è che sta facendo una gran spesso filosofia. Perde anche il contatto con le altre persone, le altre perché persone. Non, magari altri non fanno fatica a seguirlo e come dire cambiano strada. Esatto. E quindi mentre chi è sempre concreto e solo concreto, come dire, gli è un po' vietato sognare, un po' è vietato esatto. entrare in questo mondo, esatto. È molto triste. Molto triste. Ecco, questo per vedere come un modo di ragionare, tutto sommato quello che stiamo dicendo è a portata dei bambini, non è una cosa difficile. Sì, penso, no? Che se spiegassimo a un bambino di 5 anni, ma nostro, direbbe, vabbè, ma il nostro compito è quello, cioè di dire l'ovvio, ma dire quel tipo di ovvio che ormai è andato perduto. Certo. E quindi mi rifaccio un grande libro che è Il futuro nel passato di Helen Hodge, vabbè adesso mi viene il nome, comunque la quale dice la saggezza che c'era in alcune culture del passato è andata completamente perduta. Oggi era la saggezza non duale, la saggezza anche delle cose semplici che abbiamo in qualche modo ci è arrivato il pensiero che se una cosa è semplice non ha non valore. E lì c'è una squalifica del femminile. La donna per sua natura non può non occuparsi di cose semplici. Per dare allattare un bambino non è una cosa di alta astrazione, nemmeno far cucina è una cosa di alta astrazione. E in una cultura in cui le cose semplici vengono squalificate, la donna è squalificata per sua natura. E non a caso viene pagata meno nei posti di lavoro, non ci sono leader donne, ce n'è pochissime. E quindi in questo senso il movimento femminile è stato importantissimo nel Novecento, e guarda caso è quel movimento che ha detto partiamo da noi stesse per comprendere il mondo, a come sentiamo, che sensazioni abbiamo, e così via. Bene?